Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Pulire, poi io sono casalinga, quindi ho più disponibilità di tempo rispetto a tanti altri, quindi aiuterò Milano, la mia città. Pugne, stracci, strofinacci. Ciao. Tutti insieme per cancellare quei segni di inciviltà e violenza, armati di scopa, guanti, spugne e detersivi. È proprio bello guardarsi in giro e vedere la risposta. Sono immagini come hanno fatto il giro di tutti i nostri televisori, dei nostri smartphone, dei nostri tablet, del nostro immaginario. Immagini belle, edificanti, si contrappongono alla barbarie che spaccava le vetrine. Il giorno dopo, umarelle, signore con le scope in mano, ripulivano la città. Gesto encomiabile, sicuramente, gesto da seguire. Però rendetevi conto che era anche fatto a favore di camera, quel giorno non giravano altro che televisioni, telecamere, fotografi e giornalisti a fotografare l'evento dei milanesi che si riappropriavano della loro città, del decoro della loro città. Beh, oggi vorrei spostare invece la riflessione su quanti lo fanno comunque abitualmente, non perché ci sia un'azione vandalica ordinata e strutturata, politicamente diciamo supportata, ma perché? Perché hanno in fastidio di vedere le loro città abbandonate. Sono i retaker, sono le persone che come attività personale, come hobby, come impegno politico, sociale, al di là di ogni connotazione ideologica, anzi sono totalmente privi di ideologia, tutte le settimane si incontrano e in tutte o moltissime città d'Italia fanno la stessa operazione. La fanno non perché passano vandali organizzati, vandali definibili, vandali in divisa, vandali che si contrappongono alle forze di polizia. Perché tanti vandali come noi, mi ci metto io per primo, non considerano loro le città e quindi le trattano come le grandi immondezzai. Quante volte vi siete fatti prendere voi dalla tentazione di raccogliere qualcosa al di fuori del cassonetto che vedete o davanti casa vostra o per caso in casa e lo buttate dentro? A me capita tutte le mattine. O vuoi c'è la signora anziana svogliata che non ce la fa perché non ha forza, non ha voglia e lascia le schifosaggini del suo umido appoggiate fuori del cassonetto della carta e fa schifo perché puzza, è orrendo. O perché nottetempo in molti quartieri di Roma ormai ci passa la raccolta differenziata abusiva dei signori e signore che viaggiano con il carrettino a mano, con il carrello della spesa, vuotano tutti i cassonetti, fanno l'incetta dei materiali che possono vendere e riciclare e lasciano tutto lì. Poi passa il camion della nettezza urbana, ma siccome ormai è un automatismo, prende, rovescia del cassonetto e se ne va, lascia per terra ogni schifezza. Io ho fatto di tutto, fotografato di tutto, ho fotografato enteroclismi che sono rimaste per settimane lungo i marciapiedi di Viale Mazzini, qualcuno l'ha buttato via e lì è rimasto, nessuno ha avuto il coraggio di toglierlo. Oppure quelli che imbrattano i muri, non mi venite a raccontare si tratta di arte urbana, una nuova forma di espressione, di protesta, di violenza, di violenta maniera di esprimersi. No, sono ragazzetti, non hanno niente da fare, vanno in giro col pennarello, non voglio ragionare come un umarello, a me fa schifo vedere la facciata di casa mia che contribuisco anche io come condomino a riverniciare e dopo due giorni passa un cretino e col pennarello ci scrive una stronzata. Beh, ci sono quelli che lo fanno quotidianamente, non hanno nemmeno il privilegio di una telecamera che riprende le loro immagini, qualcuno dice ah che bello, che bravi, finalmente la brava gente scende per strada. Io sono l'antitesi del brava gentismo come ideologia, può dire tante volte ammiro queste persone. 800240024, fate parte del popolo silenzioso di quelli che ripulisce le città anche se non le ha sporcate. Ormai anche cioè, sui marciapiedi non si può più camminare, devi fare lo slalom fra gli escrementi, non tanto su questa strada ma sulle strade laterali, e i muri sono tutti imbrattati, cartacce, adesivi sulle vetrine, insomma non è piacevole all'occhio, diciamo, più che altro. E in questa situazione, in questa... Antonino Battaglia, buongiorno. Buongiorno. Trova giusto che si ricordi anche chi lo fa comunque sempre, abitualmente, senza cavalcare l'evento. Non voglio essere critico, non voglio fare il Bastian contrario. Lei fa parte, diciamo, dei retaker romani, avete anche un sito, retakeroma.com. Come agite, come vi muovete e qual è quello che fate voi nelle nostre strade? Molte volte la gente di una strada più pulita non si rende conto che non è stata diciamo il personale del municipio a farlo, ma è qualcuno che in realtà nessuno paga per farlo. Esatto, sono stati volontari cittadini che abitano in quel quartiere a farlo, perché quella via inevitabilmente appartiene anche a loro. Sì, noi lo facciamo organizzandoci su internet e tra di noi, nei nostri gruppi di quartiere, quindi evitando affissioni abusive in giro per i quartieri, che inevitabilmente comportano anche quello un imbrazzamento e quindi una venuta meno del decoro. Sì, sarebbe un paradosso pubblicizzare un'iniziativa di ripulitura attaccando i manifesti. Consideri che ci sono state circostanze in cui taluni soggetti, non vengo a dire, lo fanno, l'hanno fatto. Ci attaccano i manifesti, oggi puliamo la città dai manifesti abusivi. Sì, lo fanno. Lo so, è paradossale. Anche quella è una lotta anche culturale la nostra, non solo finalizzata a pulire, perché noi puliamo per educare. E qui leggo un volantino che è un'azione tipo la vostra, non siete voi. Appuntamento alle 9, via Principe Amedeo, di fronte al mercato Esquilino. Vi aspettiamo con raschietti, sgrassatori, guanti, sacchi e scope per pulire assieme. Ecco, ognuno deve venire dotato con la propria attrezzatura. Ci sono dei consigli, c'è un armamento tattico da dover comunque procurarsi per fare questa operazione. Sì, con l'esperienza abbiamo compreso quelli che sono gli strumenti più adatti ed essendo volontari il caso che ciascuno porti quel che può, non è che deve portare tutto l'armamentario, quel che può è sufficiente perché poi i materiali vengono utilizzati in comune e una determinata via, un determinato spazio verrà ripulito. Ad esempio noi questo elenco l'abbiamo pubblicato, si parla di raschietti, per l'appunto di ramazze, di scope, di detergenti per inumidire le affissioni abusive e poi pulirle con i raschietti. Ecco, si può fare una classifica di quelli che sono gli oggetti inquinanti delle città in ordine di pericolosità? Sì, le posso parlare di Roma, che Roma fa anche un caso a sé, soprattutto per gli adesivi abusivi dei traslocatori che veramente tappezzano tutto Roma, dal centro fino alla più estrema periferia. Ecco, anche questa, siccome c'è un numero di telefono sempre su questi adesivi, sì, lo dico per i cittadini di altre città, a Roma i cassonetti ne sono pieni, ma anche le porte, gli angoli, sono dei piccoli adesivi, ma migliaia, centinaia di migliaia, con scritto traslochi veloci, con un numero di cellulare. Sì, quei numeri di cellulare ci stanno, infatti noi abbiamo sempre cercato di dialogare con le autorità competenti al riguardo. Poi c'è anche una normativa che non rende possibile una disattivazione delle utenze, almeno questo ci è stato detto. Parimenti ci hanno detto, sulla base di indagini che la polizia ha svolto, che sono di prestanome nella maggioranza dei casi, e inevitabilmente si crea quel circolo vizioso che non permette di dare una fine al fenomeno. Una fine forse la possono dare i cittadini che dicono no, basta, non li vogliamo più. Che poi alla fine è sempre un'attività di recupero, diciamo, svuotano cantine e si tengono tutto. Non solo, poi quelle quando svuotano le cantine, molte cose loro, non avendo partita IVA, non pagando tasse, le prendono e le buttano nei parchi. A questo molte persone non pensano, purtroppo. Quindi Quindi voi avete già individuato un'altra delle tante piccole attività parassitarie che stanno all'ombra, diciamo, della disattenzione generale rispetto ai rifiuti. Sì, perché una cosa che vorremmo far presente alle persone è che il decoro di per sé non solo è un problema a sé stante, ma è anche la causa di altri problemi. Questa è la cosa importante, perché molte persone dicono ma voi togliete solo le abusive o le affissioni o le scritte, ma anche quelle affissioni, quelle scritte, quegli adesivi sono la causa di altre problematiche che sul momento uno non può considerare come problematiche, ma inevitabilmente lo sono. Quindi parliamo di discariche, parliamo di crimini maggiori per applicazione della teoria delle finestre rotte, dove se il crimine minore è permesso allora anche il maggiore si può realizzare. Fermati un attimo, 800240024, vorrei avere qualche altra esperienza o qualche impressione delle persone che sentono parlare un ragazzo. Questa è un'attività che uno direbbe ma appartiene, è una protesta da pensionato, rivogliamo il decoro. No, sono ragazzi, dicono la città la viviamo anche noi, la vogliamo il più possibile adeguata e pulita. Enzo, buongiorno. Sì, buongiorno. io volevo solo dire che è talmente semplice la soluzione che mi meraviglia. Ma per avere pulito basta non sporcare. Ma se qualcun altro non c'è sporca... bisogno di tante cose, non c'è bisogno di avere le imprese di pulizia o i volontari benemeriti naturalmente che poi vanno a pulire quelle che i cretini hanno sporcato. Basta non sporcare e avremo pulito. Lei comunque non fa una mazza con questa cosa qua e sta a guardare come qualcuno c'è che sporca. Giusto? Giusto, fino a un certo punto. Mi sembra un po' una soluzione. Lei dice basta non sporcare, siccome qualcuno sporca comunque, e lo sporcare è anche frutto di un'attività, avete sentito, clandestina, criminale, illegale, via dicendo. Invece che aspettare che si muova qualcuno dovrebbe farlo, questi ragazzi prendono e lo fanno. Lei sta a guardare, dice, perché è cattivo chi sporca, però intanto i ragazzi puliscono anche per lei. Anna? No, ma sì. Ci mancherebbe, cerco nei limiti del possibile, faccio anche la mia parte, però io parto da questo principio, non sporco e come lei ha detto... Sì, ma io sono convinto che lei non sporchi, se è una persona civile, ma siccome altri lo fanno... più che dopo aver denunciato, essersi indignati, aver detto sono dei maleducati, questi certo. Stirano sulle maniche e puliscono, mi sembra una cosa ammirevole. Anna? Buongiorno, sì. Io sono Anna, chiamo da Brescia, una città molto bella che invito tutti a visitare, però molto sporca. Io mi sono preso un piccolo impegno da circa un anno, che ho il cane, per cui passeggio molto nella mia città, raccolgo tutti i giorni 5 cose da terra. Non è molto, però in cuor mio penso... 5 cacche di cane? 5 delle cacche del mio cane, tutte. No, ma anche degli altri? No, quelle che sono le cacche dei cani, quelle non... Ognuno le sue, beh, almeno quelle. Però ci sono veramente rifiuti ingombranti, carte di patatine, scatolette, lattine, bottiglie di birra. Si trova di tutto, soprattutto la mattina. Io, vabbè, di spirito potrei dire sto qua tutto il giorno a raccogliere, ma ho un lavoro e quindi non posso dedicare tutto il mio tempo. Però 5 cose le raccolgo tutti i giorni. Quindi vede, non lei mi conferma che c'è un atteggiamento generalizzato, che di fronte al fatto ci si indegna, si dice che è schifo, che cosa orribile, qualcuno dice, beh, io intanto faccio qualcosa. La domanda che faccio a tutti, e troveremo risposte dopo, fra un istante, dopo l'informazione del traffico, questo è un atteggiamento che comunque autogratifica, crea la differenza tra esseri umani civilizzati e esseri umani ancora incivili, o dà ancora un più largo margine di menefreghismo da parte di chi sporca? Tanto ci sono anche i cretini che puliscono per me, quindi tanto vale, dopo che ho bevuto la birra la posso lasciare per terra la bottiglia, tanto passerà la signora Anna, la raccoglierà. Tra poco. Melog. Cronache meridiane. Stiamo parlando dell'esercito poco conosciuto e senz'altro poco celebrato dai media, dei pulitori spontanei e volontari delle città, quelli che si accollano l'onere di pulire il frutto della sbadataggine, maleducazione e a volte anche azione illegale di altri cittadini. Loro lo fanno, intanto danno un esempio. Virginia, buongiorno, Riteca romana. Ciao. Mi spieghi esattamente anche come funziona il rapporto fra ragazzi di giovanissime generazioni, perché leggo gli sms che mi arrivano, come la signora Anna, sono tutti signori, fanno parte di una sorta di categoria ben pensante che di fronte all'orrore della sporcizia alla fine si tirano sulle maniche. Ma che lo facciano ragazzi sembra sorprendente. Mi dai qualche elemento più sulla composizione anagrafica delle vostre squadre? Guarda, tra di noi ci sono assolutamente molti giovani, sia abbiamo proprio i bambini portati dalle proprie famiglie che i liceali che sono stati contattati o comunque inglobati nel nostro movimento attraverso magari dei loro professori. Io per esempio sono stata reclutata quando stavo ancora al liceo, avevo 17 anni. Quindi lo fai da parecchio tempo te questo lavoro? Dal 2009. Tu sei stata anche a Milano, vero? Esattamente, io che poi è stata una cosa molto interessante, tragicomica, perché io ero a Milano per lavoro e ho visto i momenti in cui comunque c'è stata quella distruzione e tutto quello che è successo, e per questo ho deciso di rimanere il giorno dopo. Mi sono messa in contatto con il presidente di Ritec Milano, Andrea Amato, che era già in azione già da notte del primo maggio per coordinare il processo. Senti, sbaglio o la mia impressione, correggimi se sbaglio, che in realtà la ripulitura di Milano è passata come un moto non organizzato, spontaneo, cittadino, ma che ci siano dietro stati i retech nessuno l'ha detto, o sbaglio? No, in verità l'hanno detto, solo che cioè, tutte le foto che vedi del giorno dopo, del 2 e del 3 maggio su Repubblica, sul Corriere, quelli con le pettorine gialle, sono tutti retaker. E nessuno lo dice però questo. Nessuno lo dice perché... E sembrava strano che fossero tutti organizzati, con le palette, col vestito uguale. Nessuno lo dice che erano retake quelli. Noi, diciamo, cosa possiamo farci? Noi passiamo sempre in secondo piano, ma non ci importa, non vogliamo... non siamo noi gli eroi. Sì, no, eroi no, però diciamo che la ripulitura di Milano si fondava su un asse organizzato, strutturato, con una sua tradizione e con una sua metodologia, perché sennò se io prendo un cittadino comune e dico ripulisci non sa nemmeno da dove cominciare, che sono stati appunto questo movimento che proprio che non ha padrone politico, di cui nessuno se ne interessa, che sono i retaker. Lo so, appunto perché non c'è nessun risvolto politico, a volte passiamo in secondo piano, però grazie a questo evento, perché allora la cosa è andata così, Nessuno Tocchi Milano è stata un'azione coordinata dal sindaco di Milano e dal comune, certo. In maniera parallela noi eravamo già in azione, poi le cose si sono unite, però gli unici che erano, a parte l'AMSA che è l'AMA romana, gli unici con i pennelli in mano erano i retaker. Diciamo un'operazione un po' più complicata su Milano, perché rispetto a pulire gli adesivi e quali sono state le difficoltà tecniche? Beh, è che ogni volta che il poco preavviso, perché per pulire un muro, dicevo proprio tecniche, dicendo, rispetto all'atto di vandalismo che è stato fatto, sì, cioè una vetrina antiproiettile sfondata è un po' più difficile, diciamo, la rimettere a posto. Sì, no, ma quella infatti noi non la tocchiamo, noi abbiamo soprattutto fatto azioni di riverniciatura sui muri. E non so, infatti non so se hai visto che c'erano tante scritte sui muri, su tutta via Piazza Cadorna. Io ho visto addirittura un muro completamente riverniciato, almeno fino all'altezza uomo, da dei ragazzi. Sì, quello è il muro che è stato fatto appunto proprio dai retakers in via di Amicis, dove poi è passato quel lungo corteo di Nessuno Tocchi Milano, perché poi ovviamente i vetri antiproiettili noi anche da un punto di vista di sicurezza non possiamo toccarlo. Noi facciamo ciò che possiamo, ma anche in maniera simbolica, nel senso che dopo tutto questo casino, dopo tutta questa arrabbiatura dei milanesi, poi qualcosa si farà da giornalmente e anche nei giorni prossimi, perché non è che tutte le cose distrutte sono state ripulite in un giorno. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Marzia, buongiorno. Marzia. Buongiorno. A lei. Allora, io ritengo che siano bravissime queste persone che si mettono a ripulire le città. Almeno oggi gli diamo visibilità, perché non mi pare che sono stati poi così citati in giro. Però sono contento, sì. Io sono contenta come cittadina. Non sono contenta perché devono essere istituzioni che fanno il loro lavoro. Io abito in un quartiere di Roma, l'Eur, dove sistematicamente ragazzini dai 12 ai 14 anni, ragazzini proprio, con le bombolette pitturano, fanno qualsiasi cosa, tu vai a ripulire, spendi soldi, perché spendiamo soldi oltre che di tasse anche di condominio, perché insomma fa parte del decoro urbano, quelli di nuovo ricominciano, e se non ci sono loro, poi per quanto riguarda i cassonetti c'è i rom che sistematicamente passano, puoi riempire il tuo cassonetto, però loro passano a una certa ora, lo vissano e scelgono le cose che gli conviene praticamente. E questo prendere. L'abbiamo detto, a voi è venuta mai la tentazione, al di là del fatto debbano farlo le autorità, è giusto, comunque se lei vede il cassonetto di fronte a casa sua con tutto il ben di Dio per strada, non le viene in mente di rimetterlo dentro, che fino al giorno dopo comunque nessuno ci metterà mai le mani? Personalmente a me fa schifo, scusi. Anche a me fa schifo, ma io quando c'ho davanti al portone, crede, e vedo mucchi di roba, preferisco mettermi un paio di guanti e pulirlo. L'abbiamo fatto. C'abito lì, quello è il problema. L'abbiamo fatto, il giorno dopo è risuccesso. Allora, io dico semplicemente, per quanto riguarda i ragazzini, ci devono pensare i genitori, che devono essere più attenti, perché bambini che si permettono di uscire, di comprare un momento di crisi, le bombolette, un momento di crisi dove la gente fa fatica a arrivare alla fine del mese, insomma, lo trovo sconcertante, inquietante. I genitori devono provvedere, devono essere sanzionati pesantemente, in modo che ricorrono a educare in modo migliore i propri figli. Per il resto, qui bisogna un attimino vedere, insistere con questi rom che girano con questi carelli per tutta Roma a una certa ora e vuotano i cassonetti e ricominciano da capo anche con quello. Sì, quello allora, è un problema, ne abbiamo parlato. Poi in questo caso io volevo una volta tanto accendere. Ma sono due grossi problemi. Sì, enormi problemi, figuriamoci. Ma io ho una certa età, sarò 20 anni praticamente che sento parlare di questi problemi. E mi scusi, alla mia età si fa fatica a dire sempre le stesse cose, si fa demagogia, parlare sempre delle stesse però, cose. Sì, però non dirle è peggio, stare zitti. Sì, sono d'accordo, ma sempre le stesse cose. Allora, trovi lei un argomento originale. Ho io, mio figlio, che poteva anche lui fare. Come sì, dire, sì, adesso proprio, ci sta facendo la predica, scusi, buona giornata. Emanuele. Sì, pronto? Sì. Lei deve dire una cosa, penso sensata, immagino, perché è giusto la protesta, ma io il tempo che impiego per protestare faccio prima prendere un sacchetto e buttarlo nel cassonetto. Poi, Emanuele, non c'è più tempo, la sigla ci porta via. Ahimè, è così. Ci sentiamo la prossima volta.